possiamo accomodarci e io voglio che in questo giorno possiamo celebrare i nostri 50 anni nella maniera opportuna. Ma ci credete, 50 anni, 50 anni di storia che la Chiesa Pieno Vangelo è presente in questo paese, in questa città, 50 anni che domenica dopo domenica la parola di Dio è stata predicata, incontro dopo incontro si è lodato il Signore Gesù con la musica, con la gioia dei canti, si è riscattato il vero senso di essere cristiani in questa città attraverso la nostra Chiesa. Sei un po' orgoglioso? Io sono orgoglioso di far parte di questa Chiesa. Io sono grato a Dio e il mio orgoglio non è un vanto carnale, ma è un orgoglio che celebra il Dio che ha permesso tutto questo. Perché se noi abbiamo potuto vivere tutto questo in questi 50 anni è solo grazie al nome di Cristo Gesù. Amen. Amen, vi siete rivisti in qualche foto? Le abbiamo messe tutte in bianco e nero, spero che nessuno si sia sentito troppo vecchio, le abbiamo dovute adeguare perché avevano colorazioni diverse, forse ti rivedi in una foto e dici ma all'epoca c'erano già le foto a colore, a colore. Perché compaio con una foto in bianco e nero? Queste foto ci ricordano che siamo parte di una storia e oggi noi la vogliamo celebrare e io voglio che nel celebrare noi non solo ci diamo una pacca sulle spalle, ci diciamo oh, quanto siamo benedetti, e che tu sia parte di questa Chiesa da un mese o da 50 anni, è un onore, è un privilegio essere parte di tutto questo, ma noi quello che vogliamo fare nel celebrare sia oggi che per le prossime due domeniche i nostri 50 anni è guardare indietro per riscattare e continuare a imparare da quanto è successo nella nostra storia. Siete d'accordo? Volete farlo con me? E quindi non c'è modo migliore che imparare da coloro che sono stati protagonisti di questa storia. E quindi voglio che tutti noi seguiamo questo video, un video di intervista nel quale abbiamo fatto alcune domande ai nostri pastori e i nostri pastori hanno dato delle risposte, sono ricche di saggezza, ci sono delle parole che io ho segnato e che sentirete: temerarietà, cambiamento, sfida, chiamata, battaglia interiore, paura, scoraggiamento, ostilità e responsabilità. Queste sono solo alcune parole che ascoltando questo video sono apparse alla mia mente in una maniera particolare, sono state evidenziate e sono convinto che da questo video ciascuno di noi potrà trarre già da solo da questi 10 minuti di video tanta benedizione. Quindi ascoltiamolo e vediamolo insieme. Allora, mi presento per esteso. Sono Giuseppe Domenico Ronchi, ero pastore della Chiesa Pieno Vangelo di Modugno e attualmente alle dipendenze di Dio tutto fare, tutto quello che serve. Io sono Sofia Johanna De Vries. Sono 50 anni che sto in Italia e sono olandese. In un certo momento ho sentito molto chiaro la chiamata del Signore di dare la mia vita completamente a Lui. E questo decisione ha cambiato completamente la mia vita. La Chiesa è nata dall'opera veramente di una squadra di missionari venuti dall'Olanda, ma è stato il prendere proprio la responsabilità in prima persona, mia moglie ed io, del gruppo. Questo aveva veramente del temerario, ecco, questo è proprio il termine esatto. Venendo in Italia ho dovuto affrontare tante cose diverse, potete immaginare. Io, una ragazza bionda, capelli lunghi. Penso che pochi italiani avevano incontrato delle ragazze simili. Allora, avevo anche fastidio. La lingua, tutta un'altra lingua. Una volta sposandoti con un italiano, mi sono resa conto che adesso non dovevo solo rimanere olandese in un ambiente italiano, adattandomi alla cultura, ma dovevo diventare italiana. E questo non era facile. Ho subito il primo anno tanti cambiamenti. Il primo anno sposato, subito incinta, e poi diventare moglie di pastore. È vero, di un gruppo piccolo, ma era una responsabilità. Era bello. All'inizio le attività evangelistiche erano avventurose, era qualcosa di veramente che ti riempiva sia nelle attività ma anche nel cuore. Eri completamente soddisfatta di vedere la gente che aveva fame e bisogno della parola di Dio. Ma con la responsabilità della Chiesa, lì l'impatto è stato anche inizialmente abbastanza forte, e questo mi ha spinto a dipendere realmente continuamente dal Signore. Questa è stata un'altra sfida, un'altra lezione grande. Devo dire che non tanto mi piaceva essere casalinga, sempre le stesse cose, sempre la polvere, sempre le biancherie. Mi piaceva molto di più il lavoro di, diciamo, servire il Signore. Ma con lotta, leggendo anche la Bibbia, il parlare del Signore mi ha portato a questo. Passi cruciali era scoprire chi ero io e che potevo essere quello che sono. Questa è stata per me una cosa molto importante e anche una liberazione. All'epoca eravamo abbastanza delle isole, eri il diverso. Quando ti presentavi anche per chiedere un permesso, non sapevano come fare, si muovevano in tutti gli uffici per domandare come fare con queste persone o questi nuova entità. Ma le battaglie, bisogna dire, non erano tanto con le persone, con gli altri, ma le battaglie erano, almeno per me, non so per mia moglie, ma almeno per me erano più dentro, erano le paure, erano gli scoraggiamenti. Quando dicevamo noi siamo della Chiesa evangelica, ci guardavano. Ostilità abbiamo notato, vissuto anche della Chiesa cattolica, perché per loro eravamo nuovi e portavamo una dottrina sbagliata. Logicamente questo non tanto ha causato a noi problemi, ma soprattutto i credenti nuovi hanno subito incomprensioni, ma anche in un certo senso, in certi casi, proprio persecuzioni. Come ho vinto, almeno io, ma anche insieme molto, perché pregavamo molto insieme, ma parlo a livello individuale, per me è stato sempre molto determinante la chiamata. E lì io guardavo e quindi era il piano di Dio con la mia vita, ma anche con quello che mi aveva dato, affidato o chiesto di fare. La chiamata è stata per me determinante, è sempre stato il faro della mia vita, guardare alla chiamata, perché lì era Dio dentro, era il Signore Gesù dentro. Eravamo giovani, quindi non sapevamo nemmeno come fare, cosa fare. La preparazione poi è venuta anche dopo, ma all'inizio quell'avere la responsabilità e vedere anche che persone in un qualche modo dipendevano da te ti portava tanto tanto vicino al Signore. Riconoscere sempre, sempre, sempre che non ero io bravo a fare quello, non ero io capace di risolvere quella situazione, ma riconoscere che il fautore era Dio alla base realmente di tutto. E poi forse l'insegnamento più grande che il Signore mi ha dato di tutto questo è il saper attendere i suoi tempi. Avrei sempre voluto subito e immediato le cose, ma proprio lì dovevi imparare ad attendere la pazienza, ma anche proprio il saper vedere oltre quello che poteva essere il muro immediato, oltre quello che poteva essere l'ostacolo o la difficoltà di subito, e vedere i tempi di Dio. Questa è stata per me una grande lezione. La cosa più importante che ho imparato è prendere tempo per il Signore, portare al Signore tutte le cose difficili, le sfide non solo nella chiesa, ma anche di matrimonio, di essere mamma. Avevo difficoltà a concentrarmi nella preghiera e un certo momento ho pensato, devo risolvere questo, e ho pensato, sai, inizio a scrivere le lettere al Signore. Così ho preso un quaderno, la penna, e ho scritto tutti i miei sentimenti, le difficoltà, sia nel matrimonio, sia essendo mamma, sia nella chiesa. E questo mi ha molto aiutato di concentrarmi, di riflettere, ma anche mentre stavo scrivendo, il Signore mi parlava. E questo mi è stato di grande aiuto. Io devo dire che ciò che più ho imparato o mi ha impattato la mia vita è l'aspetto caratteriale o aspetti caratteriali della mia persona che il Signore ha voluto modellare, cambiare, arrotondare per renderlo uguale, o meglio dire, per renderlo capace di assecondare il suo piano, di realizzare quella che è la sua chiamata alla sua maniera e non alla mia maniera. E questo continua, devo dire, ancora nella mia vita. Questo è quello che più metto davanti, ciò che devo cambiare o meglio rinnovare. I nostri pastori, vogliamo fare un applauso sentito e onorarli per la loro vita, per le loro scelte, per quello che significano per noi. Che bello onorare. La parola di Dio dice: fate a gara nel rendervi onore. e noi abbiamo di che essere grati nella coppia pastorale, quello che loro hanno scelto di fare, le sfide che hanno affrontato, ed è questo quello che celebriamo. La storia della nostra Chiesa è importante perché è fatta di persone, e di persone come me e come te, che scelgono di seguire Gesù, e nel loro seguire Gesù creano una strada, un percorso per altri. Questo è il fare Chiesa. Gesù ha cominciato questa strada. Lui ha detto: io sono la via, e noi siamo invitati a seguirlo. Gesù dice: se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Questo è essere cristiani, e noi nel farlo invitiamo, già solo nel farlo invitiamo altri a partecipare a questo cammino, che è un cammino di redenzione, che è un cammino di liberazione, che è un cammino di gioia, è un cammino di vittoria, è un cammino di benedizioni che vengono dall'altro in ogni sfera di vita, ma è anche un cammino di sfide, è anche un cammino di difficoltà, è anche un cammino dove affronti ostilità, è anche un cammino che fa paura. E io voglio parlare oggi della paura, o meglio, voglio parlare del coraggio, perché in tutto questo racconto che abbiamo ascoltato e in tutta la storia della nostra Chiesa e nella storia della Chiesa in generale c'è una caratteristica che anima i figli di Dio e permette loro di avanzare e di conquistare, ed è il coraggio, il coraggio. Abbiamo un baule qui sul palco che è un baule dei ricordi, diciamo così. C'è di tutto qui. C'è il Lodatelo. Quanti si ricordano del Lodatelo? Che si usava per... non c'era il proiettore, non c'era neanche la lavagna luminosa, e qui c'erano i vari canti, e quindi si seguiva da qui i canti. Ci sono le nuove generazioni, i ragazzi che mi guardano strano. C'è questo che forse voi non conoscete, perché... purtroppo non avete mai avuto il privilegio di poter ascoltare musica dalla cassetta, la cassetta quella che il cui nastro si imbrogliava e poi con la matita sbrogliavi, vi ricordate? Oppure che giocavi facendo girare attorno sempre a una penna, una matita, e ti divertivi così, e per ascoltare un brano, pensate un po', non bastava cliccare su un tasto, dovevi letteralmente andare in avanti, aspettare alcuni secondi, sperare che avevi aspettato il giusto tempo per mettere play, e se sicuramente non avevi azzeccato il momento dell'inizio di quel brano e quindi andavi indietro, in avanti per cercare l'inizio del brano, oggi clicchi e passi da un brano all'altro con estrema facilità. E questa è una cassetta che come Chiesa abbiamo realizzato, il tralcio. C'è un sacco di altra roba qui dentro, non posso prenderla tutta, però ho fatto mettere anche una cartina geografica, perché sapete che tutto ha avuto inizio da una cartina geografica, proprio come questa, una cartina dell'Italia. E io oggi vorrei onorare anche un servo di Dio che è stato determinante per la fondazione della nostra Chiesa, che è Alberto. Lo vedete in questa foto, in bianco e nero. Alberto, che cosa ha fatto? Quest'uomo meraviglioso un giorno si è messo in preghiera, ha messo davanti a sé la cartina dell'Italia e ha chiesto al Signore di mostrargli un posto dove andare. E qualcuno ricorda che abbia chiuso gli occhi, puntato il dito, aperto gli occhi e visto che il suo dito era puntato sulla città di Potenza. Pensate un po', sua moglie dice che in realtà era perché faceva parte di questo movimento in Olanda che si chiamava Fiume di Potenza, e quindi traducendo questa parola si è reso conto che c'è una città in Italia che ha il nome di Potenza. E forse ha pensato di andare in una metropoli, la metropoli più grande, più significativa della nazione, e invece si è ritrovato nella Basilicata, più interna, e in questa città che intravedete non ha neanche la parvenza di una città, un paese sperduto in una regione che ancora oggi non è tra le più grandi d'Italia sotto ogni punto di vista, eppure lui ha avuto questa chiamata, ha risposto a questa chiamata, si è messo in una macchina e lui ci ha tenuto a precisare che la sua macchina è stata questa qui, una due cavalli, che quando il vento era a favore raggiungeva 100 km orari, ma quando era contrario andava a meno di 70 all'ora. Pensate, dall'Olanda fino a Potenza in questa macchina si è avventurato senza sapere chi incontrare, chi l'avrebbe ospitato, e si è prefissato questa meta dicendo: se per 3 giorni non troverò un posto dove dormire, me ne andrò da questa città. E per 2 giorni ha dormito nella macchina, nella due cavalli, che ha una potenza che, pensate, è minore delle bici elettriche che girano attorno a noi oggi. Pensate un po', anche le bici elettriche raggiungono una velocità maggiore di questa macchina. E lui in questa macchina è venuto a Potenza e ha dormito in questa macchina, non conoscendo nessuno, si è messo nella via centrale, non conoscendo bene l'italiano, ha cantato, ha attirato l'attenzione delle persone e, non potendo parlare bene, ha aperto la Bibbia, ha puntato il dito e portato le persone a leggere la Bibbia. E subito persone sono venute a conversione. È coraggio, questo è coraggio. E io credo, mi rivolgo anche proprio ai giovani, alla nuova generazione, noi dobbiamo riprendere il coraggio della fede, la fede papà descriveva come qualcosa che ti porta a fare pazzie, che non è sempre logica, la fede che ti trascina a fare qualcosa solo perché Dio te l'ha detta di fare. Il coraggio di Alberto è stato determinante per noi oggi. Oggi, se tu sei qui, è perché un uomo olandese ha lasciato la sua abitazione, il suo luogo di comfort, una società più stabile, più ricca, per andare a vivere in una precarietà, a vivere una vita più semplice, nella povertà, in quello che il Signore provvedeva. Perché? Perché semplicemente Dio gli ha detto di fare così. Questo è coraggio. Questo è coraggio, e il coraggio è il sottoprodotto della fede, ovviamente. Quindi quando parliamo di coraggio stiamo parlando di fede. Ma perché io vi parlo di coraggio? Perché il coraggio ci porta di più a pensare alla paura. Il coraggio ti porta di più della fede a pensare che c'è una paura. Perché il coraggio non è tale se non ci fosse una paura. Il coraggio, infatti, è proprio quell'azione che un uomo sceglie di vivere nonostante la paura che ha. Pensate che Alberto non abbia avuto paura, pensate che mamma, papà non abbiano avuto paura, pensate che io oggi non abbia paura. So che tu hai paura oggi, ma che cosa Dio ci chiede di vivere? Dio ci chiede di vivere coraggio. Coraggio, Chiesa. Voglio leggervi un brano, si trova in Marco, lo conosciamo tutti molto bene, dal capitolo 4, versetto 35, dice questo: in quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro: passiamo all'altra riva. E lasciata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano delle altre barche con lui, ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva. Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. Gesù dormiva sul guanciale a poppa. Essi lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che noi moriamo? E non credo che l'abbiano detto come l'ho letto io. Provate a immaginare delle barche in piena tempesta che affrontano delle onde, e queste barche che cominciano a riempirsi di acqua e ad affondare. E ora immaginate questi uomini, ragazzi, insieme a Gesù, che vanno da lui e dicono: maestro, non ti importa che noi moriamo? Non l'hanno detto così, non lo so come l'hanno detto, ma sicuramente non l'hanno detto così. Provate a immaginare, bagnati, impauriti, la loro vita era in gioco. Hanno pregato una preghiera disperata a Gesù, dicendogli: maestro, non ti importa che noi moriamo? Egli, svegliato, si sgridò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Egli disse loro, ascoltate ora, egli disse loro: perché siete così paurosi? Ve lo rileggo. Perché siete così paurosi? Sì, io ho questa capacità di attivare Google in tutti i cellulari, quindi se ora dico Google, ora tutti i cellulari si attivano e dicono cosa vuoi? Che belli i tempi quando c'era la cassetta, no? E i cellulari erano giganti e sicuramente non ascoltavano la voce del loro, di chi c'era nei paraggi. È bello vedere che Gesù dice loro questa cosa, perché siete così paurosi, perché dobbiamo riconoscere che Gesù è un maestro, Gesù è il Padre, Gesù è Dio, e quindi in questa domanda non c'è un'accusa, non c'è un giudizio, non c'è un abbandono, no, c'è un'esortazione dietro, c'è un insegnamento dietro, c'è un volere da parte di Gesù che i suoi discepoli conquistino qualcosa, ed è per questo che lui fa questa domanda e dice: perché siete così paurosi? E io credo che 2000 anni dopo, oggi, Gesù continua a fare questa domanda ai suoi figli, ai suoi discepoli, alla sua chiesa, e dice: perché siete così paurosi? E non lo fa per giudicarci. E se hai paura, Gesù non ti vuole giudicare questa mattina, ma ti fa questa domanda e ti dice: perché sei così pauroso? Non avete ancora fede? Ed essi furono presi da gran timore e dicevano gli uni gli altri: chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare ubbidiscono? Di cosa hai paura oggi? Quali sono le tue paure? Parliamoci faccia a faccia, non dovete rispondere, però voglio che nel tuo cuore tu rispondi a questa domanda: qual è la tua paura? Che paura stai vivendo? Perché siamo in un tempo incerto, siamo in un tempo instabile, siamo in un tempo non comodo, abbiamo delle situazioni attorno a noi, c'è una situazione di epidemia, c'è una situazione di crisi economica che probabilmente andrà peggiorando. Qual è la tua paura oggi? Perché sei pauroso oggi? Qual è la paura che vivi nel tuo cuore? Tutti noi abbiamo paura, nessuno escluso. Se non hai paura, non sei vivo, non respiri, c'è qualcosa che non va dentro di te. La paura è qualcosa di naturale ed è un istinto che noi abbiamo, perché che è collegato a quello che può essere una situazione di emergenza, di pericolo. Però Dio vuole che noi viviamo coraggio nella nostra vita. Che non è, ripeto, il coraggio non è l'assenza della paura. Non puoi eliminare la paura, non la puoi cancellare dalla tua vita, ma puoi affrontarla e vincerla con coraggio. Non farti condizionare dalla paura, questo puoi fare. Questo ti è dato di fare perché non sei solo. Sapete che gli psicologi dicono che la paura nelle persone nasce, e l'insicurezza nasce dalla mancanza di una presenza paterna nella loro infanzia o nel loro presente che dà loro la certezza di poter riuscire. E a prescindere da quello che è stato il tuo padre, il tuo papà terreno, Dio è il nostro padre. C'è una risposta per tutti gli psicologi che sono là fuori e si stanno interrogando come possiamo far vincere la paura a tutti quei figli che sono orfani. Non c'è nessun orfano tra i figli di Dio. Non c'è nessun orfano tra i discepoli di Cristo, perché noi abbiamo un Padre e Lui ci sostiene e Lui ci dà il coraggio per affrontare ogni paura. La paura è una condizione terribile e non possiamo accettarla nelle nostre vite, perché ci sta derubando della vita piena che Dio ha per noi. Qual è la tua paura? Di cosa hai paura? La paura, ti voglio far rendere conto questa mattina che la paura toglie sicurezza da te, la paura mette confusione, ti porta a fare decisioni azzardate, anche molto spesso sbagliate, o a non farne affatto, il che può essere tanto sbagliato quanto fare scelte sbagliate. La paura mette confusione, toglie sicurezza, mette rabbia. Quanta rabbia stiamo vedendo in questi giorni? perché la paura mette rabbia. La paura più di ogni altra cosa ti rallenta fino al punto tale da bloccarti, e se ti sopraffà blocca la tua azione, la tua vita. Ed è per questo che Gesù non vuole che noi viviamo paura, perché lui vuole che noi abbiamo piuttosto vita in abbondanza. Qual è la tua paura oggi? E non sto parlando dell'epidemia, non sono un negazionista. Credo che tutti noi dobbiamo fare la nostra parte, dobbiamo essere molto molto attenti, cauti, dobbiamo indossare la mascherina, mantenere il distanziamento, non dobbiamo negare, la fede non è negazione di quello che sta accadendo attorno a noi, non è che per fede noi non mettiamo la cintura di sicurezza quando guidiamo una nostra automobile. Non è questa la fede, ma ciò di cui io sto parlando oggi non è essere negazionisti, togliere la mascherina, stare tutti abbracciati, uniti, perché questa non è fede, non è una fede razionale. Quello che io sto dicendo, la situazione che stiamo vivendo, le circostanze che stiamo attraversando, e magari ce ne saranno di peggiori, come stanno influenzando il tuo stato d'animo? Vedete, la tempesta che i discepoli hanno affrontato con Gesù è entrata nel loro cuore, è entrata nella loro mente. Quella tempesta esterna ha devastato la loro sicurezza. Invece la tempesta, la stessa tempesta vissuta da Gesù, non ha fatto nulla nel suo cuore. Noi leggiamo a tal punto che lui dormiva. Lui dormiva durante la tempesta. Perché la tempesta è rimasta fuori. Non è entrata dentro. Tu oggi puoi scegliere di lasciare fuori le tempeste e non farle entrare dentro. Amen. Questa è la forza della Chiesa, questa è la forza dei figli di Dio. Noi abbiamo questa forza e io oggi voglio dirti: non avere paura, abbi coraggio, sii coraggioso. Questa storia è decine, se non centinaia di altre storie nella Bibbia, ci dimostrano che il nostro Dio ci espone a situazioni di paura. Fatemelo ripetere, questo è un aspetto molto importante, ed è per questo che dobbiamo leggere la Bibbia, perché la Bibbia ci fa capire chi è veramente il nostro Dio, che cosa fa veramente il nostro Dio, come agisce il nostro Dio. E a volte c'è un'ignoranza nei confronti di Dio che ci porta a dire: perché mi sta succedendo questo? Perché stai permettendo questo? Perché devo essere condizionato da una situazione che è terrorizzante? Ma dalla Genesi all'Apocalisse tu troverai storie su storie su storie dove Dio ha permesso, se non addirittura facilitato e guidato il suo popolo e i suoi figli in situazioni terrorizzanti, paurose. Vedete, la nostra concezione di buon padre è sbagliata. Non per tutti, ma io credo per molti, la concezione che noi abbiamo del ruolo dei genitori è sbagliata. Noi pensiamo che un buon genitore, un buon padre, toglie il suo figlio da ogni sofferenza. Fa in modo che i propri figli non affrontino nessuna situazione difficile. Mette un tappeto rosso, li accudisce in casa, prende ogni colpo, ogni battaglia che il figlio può vivere sulle sue spalle. E così facendo pensa di essere un buon genitore. E quello che sta facendo è esattamente l'opposto. Perché in un mondo corrotto, dove domina il male, un mondo instabile e un mondo pieno di situazioni avverse, un figlio così cresciuto sarà impreparato alla vita. Un buon padre espone il proprio figlio al pericolo. Un buon padre mette il proprio figlio in situazioni scomode. per poi dire: sono con te, ti aiuterò, ma non ti sostituisco, non prendo il tuo posto, non ti tolgo dalle battaglie, perché quelle battaglie ti prepareranno alla vita. Vedete, Dio è un buon padre, Lui è proprio buono, Lui è buono quando ci accade tutto questo, Lui è buono quando ti accadono delle situazioni terribili e terrorizzanti, Lui rimane buono perché è un padre. E come abbiamo sentito da mio padre nel video, Lui attraverso le circostanze, attraverso le situazioni, modella, modella, cambia, migliora. Abramo è stato esposto a una situazione molto scomoda, come Alberto, peggio di Alberto. Dio ad Abramo ha detto: va, lascia tutto, va. Dove vado, padre? Fidati, va. Senza dirgli dove sarebbe andato, cosa avrebbe affrontato, il padre manda Abramo e Abramo ubbidisce. Noi non ubbidiamo perché sappiamo la meta e sappiamo che la destinazione è comoda, sappiamo che sarà facile, sarà la ricca di benedizioni e di cose belle. No, noi andiamo perché Lui ce l'ha chiesto. E anche qualora, dovunque Lui ci manda, c'è sofferenza, ci sono circostanze avverse, noi riconosciamo la bontà sua nel fatto che ci dà la possibilità di crescere nel coraggio, nella forza. Vi ricordate Giosuè? Giosuè in questo passaggio di testimone, quando Mosè è andato via, è andato dal padre, Giosuè eredita la leadership del popolo di Israele e ora deve entrare nella terra promessa e deve entrare con un popolo che non sa combattere, deve affrontare delle battaglie, si ritrova davanti a dei giganti, si ritrova davanti a città fortificate e sa che deve affrontare tutte queste cose. Dio che cosa gli dice per 3 volte? Sii forte e coraggioso, sii forte e coraggioso. È la 3ª volta che lo dice, dice: solo sii molto forte e molto coraggioso. E poi aggiunge: non ti spaventare, non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Sapete che questa è la promessa più ripetuta nella Bibbia, che Dio è con noi. Ed è con noi non per spianarci la strada e rendere tutto facile subito, ma è con noi, dietro di noi, e ci tiene e ci dà forza e ci permette di affrontare le avversità, le circostanze che fanno paura, che fanno terrore, ma con la consapevolezza che non siamo soli. Non sei solo, e l'avversità che stai affrontando produrrà qualcosa di glorioso se sei disposto a non lasciarti frenare dalla paura. Ci sono persone che si stanno facendo derubare giorni preziosi, settimane preziose, anni della loro vita per paure. Sii coraggioso, perché una vita che ha significato, che ha uno scopo e ha un proposito eterno, è una vita che vive il coraggio. Fatemi concludere con qualche citazione. Nelson Mandela ha detto: ho imparato che il coraggio non è la mancanza di paura, ma la vittoria sulla paura. L'uomo coraggioso non è colui che non prova paura, ma colui che riesce a controllarla. Un'altra citazione, una persona ha scritto: la vita di un uomo si allarga o si restringe in proporzione al suo coraggio. Bella questa, eh? La vita di un uomo si allarga per se stesso, si allarga per chi lo segue, si allarga per 50 anni o si restringe ad essere insignificante, chiusa in una monotonia di cose che si ripetono. Questa è la condizione di prigione alla quale il diavolo ci vuole portare. Vi rendete conto? Il vero problema di oggi non è un virus. Il vero problema di oggi non è un'epidemia, è una malattia. Perché di malattie ce ne sono davvero tante. Il vero problema oggi è che questa tempesta sta entrando nel tuo cuore, nella tua mente. E oggi è il tempo di dire no, non voglio questo. Io voglio vivere. Io voglio fare quello che Dio mi dice di fare. Ubbidendo a tutte le restrizioni, lo ritorno a ripetere, ha senso, ha totalmente senso quello che il governo ci chiede di fare. Forse qualcuno è contrario, ma bisogna fare qualcosa ed è giusto fare quello che ci indicano di fare, se non altro per ubbidienza alla parola di Dio stessa, che ci dice di essere sottomessi alle nostre autorità. Però in questa condizione noi abbiamo un'opportunità nuova, Chiesa. Non siamo messi all'angolino per stringere i denti e aspettare che tutto questo finisca per tornare a vivere. No, la vita è oggi. La vita è oggi. E Dio oggi sta chiedendo al suo popolo, alla sua Chiesa, di brillare, di splendere, di portare avanti il suo Vangelo, di annunciarlo, di essere coraggiosi e muoversi per raggiungere coloro che hanno bisogno di fede. C'è fede in questa sala? Hai fede nel Dio vivente? Quella tua fede che ti animi a discapito di ogni altra cosa che ti sta succedendo attorno, anzi che la tua fede cresca proprio in virtù di quello che ci sta succedendo attorno. Amen. Amen. Voglio invitare il gruppo Lode e voglio invitare voi ad alzarvi tutti in piedi. Qual è la scelta coraggiosa? Se solo potessi strappare una scelta coraggiosa per ogni persona in questa sala, sarei l'uomo più felice di questa terra. Qual è una scelta coraggiosa che puoi fare oggi? Una scelta coraggiosa, di qualsiasi tipo, qual è una scelta coraggiosa che puoi fare? Forse fare sul serio con Dio. Questa sì che è una scelta coraggiosa da fare. Dire io mi battezzo, io scelgo di odiare il peccato, io scelgo di seguire Dio, rinunciare a me stesso e fare qualsiasi cosa Lui mi chiede di fare. Questa è una scelta coraggiosa e gloriosa. E forse l'hai già fatta, ma forse ne hai perso la forza, la sostanza. È solo un ricordo lontano nel tempo. Oggi qual è la tua scelta coraggiosa? Cosa diresti a Dio? Avresti il coraggio di chiudere gli occhi, metterti davanti una cartina e dire: Signore, dovunque tu mi vuoi mandare, io vado. Aprire gli occhi e ubbidire. Perché può sembrare incosciente, può sembrare una cosa stupida, può sembrare illogica, forse verrà criticata, però forse avrà un peso e una ripercussione eterna di gloria e permetterà che chiese vengano fondate e abbiano una storia di 50 anni. Qual è la scelta coraggiosa che Dio ti sta chiedendo di fare oggi? Rinunciare a un vizio, rinunciare a delle perdite di tempo. Qual è la scelta coraggiosa che ti sta chiedendo di fare? Smettere di credere che sei ristretto in una vita chiusa e cominciare a prodigarti per imparare, per apprendere nuove nozioni, per andare con più forza. Qual è la scelta coraggiosa che il Signore ti sta chiedendo di fare? Forse non hai più un lavoro, cercare lavoro è una scelta coraggiosa. Cambiare tutto, ripartire da zero, ci vuole coraggio. E forse è un coraggio che non hai scelto di vivere, ti è stato imposto dalla situazione, ma comunque coraggio è. E Dio ti è vicino, forse per darti il meglio di quello che avevi. Perché abbiamo un Dio meraviglioso. Se riponiamo la nostra fiducia in Lui, Lui fa miracoli, i Suoi miracoli sono stupendi. Qual è la tua scelta coraggiosa oggi? Dire no all'agio, alla comodità, dire no alla paura della perdita, della povertà. Sapete che 7 italiani su 10 vivono questa paura. E questo prima che ci fosse l'epidemia. Una statistica dice che 7 italiani su 10 ha paura di essere povero. E noi dovremmo essere condizionati da questa paura, da un Dio che promette che provvederà a noi sempre, ogni giorno, e non ci farà mancare nulla. Io voglio abbracciare il coraggio di Paolo che dice: avendo di che mangiare, di che nutrirmi e di che vestirmi, sarò di questo contento. Qual è la tua paura oggi? E qual è la scelta di coraggio che devi fare? Guardando in faccia la paura e dicendo: tu non hai il diritto di guidare la mia vita, perché tu non sei il mio Dio. Il mio Dio è Gesù Cristo, che ha dato la sua vita per me e ha un destino di vita per me. Il mio Dio è colui che dice che io sono creatura sua, chiamato a fare le opere che lui ha precedentemente preparate per me. Io voglio fare le opere che Dio ha precedentemente preparate per me. E tu? Vogliamo pregare un attimo. Chiudi i tuoi occhi, dove ti trovi, anche a Mottola. Scegli. Il coraggio è una scelta, il coraggio è un'azione, il coraggio è non rimanere fermi. Scegli ora. Spirito Santo sta parlando al tuo cuore. Ti sta permettendo di uscire da questo incontro con una forza nuova, con un impulso nuovo, con scelte nuove, rinnovate. Se tu scegli di afferrarle in questi minuti, di portarle avanti nei giorni che ti stanno avanti, Dio farà grandi cose. Ed è questo quello che desideriamo, Padre: fare grandi cose, vivere una vita significativa, vivere una vita che porta cambiamento, che produce riscatto, liberazione e benedizione per molti. Siamo pronti in te ad affrontare ogni sfida, in te ad affrontare ogni battaglia, in te ogni città fortificata, ogni gigante. Con te ci sentiamo al sicuro, Padre, perché sappiamo che sebbene in noi non c'è quella forza, in te c'è tutta la forza dell'universo. Tu sei il creatore, a te ci rimettiamo. Ti chiedo di alzare le tue mani, se questo è il tuo desiderio questa mattina, di ricevere la sua forza per fare scelte coraggiose e vivere nel destino di vita che lui ha per te. Alleluia, grazie Gesù per tutte le mani e tutti i cuori arresi. Io prego nel nome di Gesù che la tempesta vada via dai nostri cuori, che la tempesta si calmi nelle nostre menti. Io prego nel nome di Cristo Gesù che ogni paura, ogni terrore, ogni pensiero negativo, ogni prospettiva che produce ansia sia rimossa nel nome di Cristo Gesù dalle nostre menti, dai nostri cuori, e che i nostri cuori siano ripieni dello Spirito Santo. Chiedo a te, Spirito Santo, di scendere e riempire ora. Riempi i tuoi figli, dai nuovo coraggio, dai nuovo vigore, dai nuova prospettiva di vita, nel nome di Gesù lo prego. Vogliamo adorare, adora il Signore. Se hai libertà di farlo, parla in nuove lingue, stai in comunione con lo Spirito Santo, lui vuole fortificarti e liberarti in questo momento.